Attenzione, attenzione, sono le 7 spaccate del mattino. Dalle frequenze dell'emittente radiofonica Rock FM sta per cominciare la trasmissione di culto pane, burro e rock and roll, la tua colazione rock. Gentili passeggeri, siete pregati di allacciare le cinture di sicurezza, perché anche quest'oggi vi sballotteremo un po' di qua e un po' di là. Caro regista Spadino, non vedo perché non partire anche quest'oggi in maniera molto classica. Sigla! Buongiorno amici, buongiorno amiche, ecco qua, pane, burro e rock and roll, puntata 34, la tua colazione rock, chissà se gli ha famo stamattina, pane, burro e rock and roll, alle frequenze di Rock FM, all'Ariele, Spadino e Fricantoni, cosa volete di più? Un lucano? Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. No, non la cambiare, pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock. Peccato che Freak non è ancora arrivato negli studi, perché Spadino me ne è venuta una gigante. Ho appena detto, cosa volete di più, un lucano? No, perché secondo me noi un lucano lo possiamo trovare, uno che ci ascolta da Lucca. Ed è all'insegna del... Ed è all'insegna dello sbellicamento, della grassa risata, che iniziamo questa 34esima puntata di Pane, Burro e Rock and Roll, giovedì 18 di ottobre. Chiedo subito scusa ai radioascoltatori di Lucca, che so che non si chiamano luccani, e allora come si chiamano? Lucchesi? Lucchetti! Sono le 7 e 2 minuti primi, tanta la buona musica che ascolteremo anche quest'oggi. Ho una scaletta blindata, perché è qualche giorno che sto facendo dei pasticci con la redazione, abbiamo troppe cose, ci incartiamo. Sicuramente per voi, i miei amici e le mie amiche della prima ora d'ascolto, quelli a cui vogliamo un po' più bene degli altri perché sono svegli da prima, non vi ho ancora mai fatto sentire la canzone dei Beatles in italiano di settimana scorsa. Pensavate di riuscire a proseguire la vostra esistenza senza ascoltare Noi possiamo farcela? E quindi ve la farò sentire nella prima ora di quest'oggi. Grazie come al solito a Spadino, che ha ben visto di registrarla per riproporvela. Poi invece il brano nuovo mi sa che lo facciamo domani. Vabbè, almanacchi, compleanni del giorno, qualche telefonata, testa attitudinale, insomma è la solita colazione servita qui a Rock FM. Ci siete là fuori, ragazzi? Siete in squadra con noi? La grande musica parte con il Rush di Limelight. Restate con noi, amici. Non ve ne pentirete. O forse sì. Ma rischiamo, dai. Universal dream for those who wish to see il Rush con Limelight, l'inizio ufficiale di Pane, Burro e Rock and Roll di quest'oggi. Allora, ho iniziato con una pessima battuta sugli ascoltatori di Lucca. Ringrazio Strega, che mi fa sapere che si chiamano Lucchesi. Grazie, ci sarei anche potuto arrivare. E ci ascolta tutte le mattine. Grazie a Strega, io ne approfitto per salutare Luca Di Lucca, uno dei miei tre operai del rock and roll, che onora la terra toscana, insomma, nella formazione musicale, nella mia formazione musicale PEI. Chiederei ad Henry invece, per favore, di gestire meglio la crisi che ci prende a quest'ora della giornata. Lui mi scrive: gli abitanti dell'Aquila, Aquiloni. Ecco, ragazzi, veramente, se iniziamo così va a finire male. Quindi vediamo di riprenderci, beviamoci un bel caffè, e cerchiamo di affrontarla meglio questa giornata, se no veramente finisce alle ortiche. Vi invito, amici ed amiche, fedeli e fedeli, anche al femminile fedeli, a partecipare grazie al numero di SMS che è 335 100 77 77. Perché partecipare? Ma è semplice, perché siamo curiosi, vogliamo sapere a che gruppo d'ascolto appartenete, che cosa state combinando a quest'ora della giornata e cosa vi è successo di grave nella vostra vita che vi ha portato ad ascoltare Pane, Burro e Rock and Roll. Vogliamo starvi vicino. Ne approfitto per salutare anche il gruppo d'ascolto Salumieri di Corso Buenos Aires a Milano, che chiedono se è rock festeggiare il compleanno con Malvasia o Malvasia alle 7:30. Sì, è molto rock. Tra l'altro, gruppo d'ascolto Salumieri di Buenos Aires, sappiate che un par de salamini anche a quest'ora a noi di Pane, Burro e Rock and Roll benissimo. Quando volete potremmo organizzarci di farvi un po' di pubblicità con le robe lì. Che scemo. Ah, Milano buia, quella che intravedo, come presumo anche le altre città dalle quali mi state ascoltando. Milano sempre più buia, anche se c'è il lampione crepuscolare, perché manca l'omino che fa jogging, e anche quest'oggi sembra che nessuno venga in via Vittor Pisani a correre. Beh, è una cosa che mi mette un po' triste. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. 18 di ottobre, no, amici ed amiche là fuori, non sarà una giornata normale, non sarà una mattina qualunque, perché anche quest'oggi c'è qui al mio fianco Roberto Fricantoni. Dia il buongiorno al suo pubblico! Naturalmente no! Faccia così a fine settimana! Sì, voglio essere dispettosamente rock! Faccia un ciao almeno! Ciao! Ecco, è andata! Le va di fare l'almanacco del giorno che fu, stupido io che glielo chiedo? Ovviamente no, ma oggi è il 18, un sì. Buongiorno per partire con le notizie del tempo che fu. Iniziamo a salutare dei colleghi. Nasceva, veniva fondata il 18 ottobre del 1922 la BBC, British Broadcasting Corporation. Ma quante ne sa? Allora, eccolo lì. Eccolo. Qual è il vero mi dica DJ sì. Ariele, qual è il vero significato? L'ha appena detto lei. Di BBC. L'ha appena detto che, lei. Che busta sceglie? Corporazione Britannica del broadcasting, della comunicazione, della trasmissione. Molto sì. Bene, la possiamo accettare, signor notaio? Sì, mi dica. Dice di sì, guardi, il signor notaio annuisce. Dice di sì, benissimo. Passiamo a una notizia datata 1929 che farà felice le nostre radioascoltatrici, perché proprio in questa data le donne vengono considerate persone secondo la legge canadese. L'importante è arrivarci. Per questo è grosso. Per quanto ci si possa arrivare tardi, l'importante è arrivarci. Proseguiamo con una notizia rock. Che riguarda uno dei più importanti gruppi rock di tutti i tempi in assoluto. E non stiamo parlando degli Skiantos, ma dei Led Zeppelin. Che succede? Nel 1968 i Led Zeppelin suonarono il loro primo concerto inglese al famoso club Marquee di Londra. Ah, che momenti, ma le controbatto con un'altra notizia rock dello stesso giorno. Era proprio il 18 di ottobre del 68 e probabilmente anche John Lennon e Yoko Ono volevano andare a vedere gli Zeppelin, però vennero arrestati con l'accusa di possesso di marijuana durante una perquisizione della polizia nell'appartamento londinese di Ringo Starr, il furbetto, che probabilmente era da un'altra parte. Sì, ma mi viene un terribile sospetto. Aia. Cosa? E se fosse stato Ringo per fare le scarpe infilarla a John, non credo, a infilarle, sa. A chiamare di nascosto anonimamente la police, a meno che volesse incastrare solo Yoko Ono, lei dice. Infatti, una roba così, per togliere di mezzo Yoko, quel furbissimo Ringo. Qualche secondo fa abbiamo dato questa terribile notizia riguardante le signore all'ascolto. Chiudiamo invece con una bella notizia al femminile. Era il 18 ottobre dell'86 e per la prima volta nei primi posti della classifica americana ci sono tre singoli al femminile. Abbiamo Janet Jackson con When I Think of You, Tina Turner con Typical Male e la bellissima True Colors di Cyndi Lauper, quindi tre donne in classifica. Girl just wanna have fun. Whoa, girl just wanna have fun. L'ho immaginata per un momento. Whoa, girl, con i capelli di Cyndi Lauper. Starebbe benissimo. Trova? Sì. Tell me where are you going, Mr. Woodstock, Crosby, Still, Nash & Young, 7:21 minuti primi. Uno dei nuovi tormentoni che lanciamo dalle frequenze di Rock FM potrebbe essere questo, citando un presidente americano: non chiedetevi cosa pane, burro e rock and roll può fare per voi, chiedetevi cosa voi potete fare per pane, burro e rock and roll. Carlo lo sa, è il nostro tabaccaio di riferimento e prima o poi ci fa diventare ricchi tutti quanti. Ciao Carlo! Ciao, ciao Ariele, sono qua in compagnia dei due miei migliori clienti, oltretutto che sono qui apposta per sentirci. Addirittura, oh, salutameli, come si chiamano? Sì, una è Carla e Enzo, che sono qui. Ti ho messo anche in viva voce perché altrimenti questa cosa qui è troppo esagerata, insomma. Senti un po', ma li giocano sempre anche loro, non escono ma resistono. Esatto, e come appunto ti dicevo l'altra volta email, tutto sommato forse è meglio appunto che non escano sti numeri, sennò finiamo che siamo troppo ricchi, poi ci tocca andare in Costa Smeralda a prenderci la barca, andare da Briatore, troppo, cioè, sai che musica poi dobbiamo ascoltare, no, andiamo a compromessi assurdi. Hai ragione, no. E allora continuiamo. Carlo, ti chiederei di togliere il viva voce perché sta succedendo qualcosa di strano. Ok, adesso. Mi senti? Esatto, stavo trasformando in topo frigo così al volo. Okay. Diamo la triste di quest'oggi che ovviamente non uscirà. Vai Carlo! Certo. Allora, il 33, che sono gli anni di Cristo, perché ci vivono pure a noi. Ok. Poi 51, la gabbia, visto che sono tutti dei topi in gabbia, sono dei topolini in gabbia, insomma. Okay. E poi 77, le gambe. Senti, ma mi ricorda qualcosa questa sfilza di numeri. Sì, i numeri di Rock FM. I numeri dell'SMS. Precisamente. Hai capito? SMS. Giusto, mi sembra buona come idea. 33, gli anni di Cristo, 51, esatto, la gabbia, e 77, le gambe delle donne. Precisamente. Come al solito, su tutte le ruote? Sì, su tutte le ruote, perché è un terno. Comunque anche con un euro prenderesti 435 euro, perciò è buono lo stesso. Dai. Carlo, no, mi piace molto lo spirito col quale stai affrontando questa rubrica completamente inutile. Mi piace molto, siamo in squadra con te. Ciao Carlo! Ciao. Appuntamento con Carlo fissato domattina, i primi minuti di diretta, quando ci dirà che i tre numeri di quest'oggi non sono usciti. Beh, ma noi affronteremo lo stesso un'altra giornata. Si chiamano Who e si chiedono: chi sei tu? Who are you? sopra. Ci sta, eh. D'altra parte, se sono sveglio io, non vedo perché non si devono svegliare anche loro, no? Vivere oggi. Lavoro, impegni. E finalmente... Perché ti vuoi bene.